canzone nuova, ma dubito che l'impari a memoria. Ho cancellato ancora il tuo numero, pensa tu che vittoria. Ormai da stamattina ti ho sulla punta della lingua, ma non hai più quel sapore. Ho preso la tua tazzina dalla mensola in cucina e mi è caduta a terra per errore. E ora odio il caffè, la mattina e il weekend, ma l'odore di casa mi ricorda ancora com'è svegliarsi senza di te, con il freddo che c'è. Dovrei andare al lavoro, ma se fosse per me mi alzerei alle tre. L'hai detto tu, vengo bene nelle foto, moro, non sorrido più. Tu esci sempre meglio di tutti, e quando sei insicura fai sentire gli altri brutti. Ma ti ricordi che prima in questa stessa cucina si poteva litigare e far l'amore? Ma ora odio il caffè, la mattina e il weekend, all'odore di casa mi ricorda ancora com'è svegliarsi senza di te, con il freddo che c'è. Dovrei andare al lavoro, ma se fosse per me